per passare a te a questo punto. Vabbè, abbiamo detto prima che in questa antologia tu hai scritto un racconto che è, io prima ho usato un termine letterario brutto, uno spin-off, insomma praticamente un estratto, un pezzo, una specie di figlio, no? Di questo volume qua. Figlio è un bel termine. Figlio, sì, è un figlio più o meno riconosciuto, però un figlio sì. Molto riconosciuto, amato. Che è United We Stand. United We Stand, che è un tuo lavoro sulla stessa scia, cioè cosa sarà l'Italia del prossimo futuro, no? Molto. Cosa si spera che non sia l'Italia? Sì. Cosa potrebbe essere? Esatto. Cosa rischiamo che sia? Due parole, United We Stand è un libro, ma non è solo un libro, è soprattutto un lavoro in rete, nato in rete, gestito in rete per tutti i primi tempi, e che ha poi compreso tutta una serie di figli, di rami, di tentacoli che si sono attaccati a moltissimi altri autori che hanno contribuito, quindi è diventato molto più vasto di questo punto di partenza. Ma mi viene da chiederti, questa visione che tu hai dell'Italia del futuro, no? Molto drammatica, molto, sicuramente molto lacerante, terribile per tanti versi, ma quanto la ritieni davvero possibile? Ma allora, un minimo di contesto per chi magari sì, tu, no, il libro lo facessi sì, tu, certo. Chi magari il libro non l'ha letto. Quello che ho immaginato è che l'8 aprile del 2013 alle politiche, è un libro di fantascienza, immagino che vinca il primo premier donna della storia repubblicana e che sia un premier di sinistra. Ripeto, è un libro di fantascienza e fin qua tutto bene, nel senso che è un augurio che si fa al paese. Il problema è che un minuto dopo l'elezione del primo premier di sinistra della storia repubblicana c'è il colpo di stato militare, quello di cui si aveva paura negli anni 70. E questa non è fantascienza. Questa... in realtà c'è un colpo di stato... C'è un colpo di Stato molto più silenzioso in atto da anni, che è molto più destabilizzante di quello che ho ipotizzato in United We Stand. Anche nel mio immaginario questa speranza non attecchisce. Perché? Perché calano militari dal cielo, perché il paese viene messo sotto legge marziale e comincia un processo da un lato di militarizzazione del paese e dall'altro di resistenza. Ecco, United We Stand era un'occasione per ripensare la resistenza, per declinare la resistenza nel XXI secolo. Molti della mia generazione sono cresciuti con nonni o partigiani o che hanno combattuto per la resistenza, sono cresciuti nel ricordo di quei ventenni che scappavano in montagna, combattevano contro l'invasore fascista. Io mi sono chiesto, scrivendo United We Stand, ma soprattutto scrivendo il seguito di United We Stand, che prende le mosse dal racconto che è contenuto nell'antologia e che poi è diventato un romanzo che ho finito l'altro ieri e che quindi sarà dato alle stampe prossimamente, che si chiama Terra di Nessuno e che parla appunto dei 10 anni di guerra civile e dei 10 anni di resistenza alla militarizzazione del paese che c'è in United We Stand. Io mi chiedevo, ho provato a chiedermi, che tipo di reazione avrebbero avuto i ventenni o i trentenni del XXI secolo in situazioni analoghe a quelle in cui si trovarono i loro nonni? E in questo racconto in particolare ho provato sostanzialmente a focalizzare l'attenzione sull'aspetto militare. Come può combattere della gente che la guerra l'ha solo vista in televisione, che magari non ha mai fatto il militare di fronte a un esercito strutturato, che si è addestrato per anni? In maniera raffazzonata all'inizio, sempre più cosciente man mano che passa il tempo, ma comunque accusando un sacco di perdite, proprio perché c'è una sperequazione tra l'invasore armato e il difensore che si deve armare per forza. Non ho mai sentito dire sperequazione. Cioè... Sperequazione è una parola, è una parola niente male. Gliel'hanno detto prima. Sì, sì, sì, non è mia. Me l'hanno telefonata oggi pomeriggio, sì, mi raccomando. Usa al momento giusto. E invece nel romanzo sono andato un po' più dentro, cioè ho cercato di analizzare quali potrebbero essere le dinamiche, la degenerazione di alcune dinamiche politiche in atto nel paese in uno scenario come questo. Per esempio, una delle ipotesi più strane che ho fatto è quella di immaginare come si comporterebbe l'Albania nel momento in cui da questa parte del mare c'è la guerra civile. Siccome c'è la guerra civile si presume che la gente scappi da un paese in guerra. Ecco, io ho immaginato che dall'altra parte non ci siano solamente i CPD, ma ci siano degli autentici centri di detenzione, perché in qualche modo il brutto servizio che l'Italia ha reso ai migranti sia reso col doppio della violenza. Io ho immaginato un... mi spiace non aver portato quel pezzo lì perché era interessante da leggerne un pezzo. Ho immaginato un senatore, un parlamentare di una certa parte politica, che in questa città in particolare la fa da padrone, dover scappare, doversi trovare in quella situazione dall'altra parte del mare. Ecco, questo è un esempio del, come dire, perché, ripeto, è un libro di fantascienza. Quindi o tocca emigrare o scrivere dei libri di fantascienza, giustamente. Beh, diciamo che sicuramente questo è una, quelle che tecnicamente si chiama una distopia. Sì. Che è molto meglio di sperequazione, si permette. Sicuramente, infatti anche ai punti di sperequazione. Questa è la seconda o la prima? Questa è la terza, paradossalmente, perché è una guerra che si combatterà nel futuro. Dal 2013, l'8 aprile del 2013 ci sarà. Perché io. Adesso un bel discorso di critica letteraria per entrambi, no? Abbiamo detto distopia, abbiamo parlato di distopia, sperequazione, adesso parliamo prima di sperequazione, quindi distopie, ucronie, formule della letteratura fantastica che oggi vanno tanto di moda, che applichiamo, ma vabbè, senza voler entrare nelle polemiche che tanto hanno, si è parlato in questi tempi, ma hanno senso queste etichette letterarie? Perché personalmente penso assolutamente no, che appiccicare etichette di questo tipo la nuova italiana, sì, varie no, vabbè, io mi riferivo proprio soprattutto al discorso dei generi, cioè parlare prima abbiamo parlato di fantascienza, sì. Secondo me parlare di fantascienza è un po' stanco, è veramente stanco, infatti, sì. Perché quando uno scrive bene e quindi ha un talento letterario si dice che esce dal genere, però poi la storia è di genere, quindi alla fine è sempre un discorso di come uno scrive, non di cosa scrive, e quindi è un discorso molto datato quello del genere, poi che però ogni 3x2 salta fuori. Sì, sarà 50 anni che si fa questo discorso sulla narrativa di genere.